fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua al Resto Radio Convento di Lonato in compagnia innanzitutto di lui. Come ti chiami? Francesco. Buonasera. Francesco, a tutti. Da dove? Dalla Valle Camonica. Ok, ho detto innanzitutto perché sei il nostro ospite, ma la nuova padrona di casa ce l'abbiamo qui. Si chiama, dillo tu, Nicole. Mi sembra di essere la Barbara d'Urso, però così, padrona di casa. Buonasera, no? Nicole. Hai visto? Col cuore. Col cuore lo col fa, cuore, eh? Hai visto? Cuore. Che bello, eh? Hai visto che lo fa col cuore, proprio? Certo. Sì, col corazon. Fantastica. Tu, Francesco, che cosa fai col cuore? Io col cuore faccio ingegneria. E basta? E basta, no, faccio anche il conservatorio, suono il violoncello. Sai che pensavo che facessi col cuore gli auguri alla festeggiata della sera? Beh, quello ovviamente, ma lo faccio col cuore, con tutte le parti del mio corpo. Gli auguri alla Francesca Nava, che oggi festeggia la sua laurea, e anche alla mia coinquilina, Sara Somaini, anche lei festeggia la sua laurea. Sei laureata in? Ingegneria delle tecnologie per la salute, un nome difficile. Quindi il prossimo sei tu che ti laurei, immagino. No, ragazzo, mi sono già laureata io. Abbiamo un dottore qui, dottor Francesco, quindi. Esattamente. Si vede che dottore, guarda che portamento da dottore proprio, no? Con questo occhiale poi direi che proprio è doctor. Sì, ma è solo, è la triennale, adesso c'è ancora la magistrale, tutto da venire, qual bello però. Che arriva. Tu studia, mi raccomando, sempre. Certo, certo, a parte stasera, almeno stasera no, me la concedete. No, stasera ti portavi il libro e mentre ballavi, no, leggevi, studiavi. Hai ragione, hai ragione, adesso lo vado a prendere in mano. Adesso lo interroghiamo. Ti immagini che bello, tutti che ballano, lui che sta lì, che legge, così, è una cosa alternativa, no? Studio in parti proprio in versione reale. Ah, è vero, studio. Beh, certo, lo studio prima di tutto. Io l'ho detto quando mi sono laureato. Va bene l'ingegneria, va bene tutto, ma lo detto ai miei familiari e agli amici. Va bene l'ingegneria, ma voi venite prima. Bravissimo, ragazzo. Intelligente. Sposato. Sei sposato? No, posato. Ok. Sono una forchetta, sono posato. Infatti, stai bene a tavola, infatti, così, no? Sei fidanzato? No, no, sono single. Che fai? Ci provi? Piacerebbe. Ti sta bene o no, single? Si sta benissimo. Quindi, prossimo matrimonio, vorrei festeggiare quel convento, immagino, sì. Beh, sì, speriamo. Mi sono trovato benissimo. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff del convento. Ah, davvero? Quindi stai ringraziando anche noi? Beh, certo. Quindi ringraziamo Nicole. Ringraziamo Nicole, ringraziamo anche Sandrino, non sai neanche. Sono io. Però ringraziamo di più Nicole. Nicole, fantastico. Sì, perché sono bionda, quindi le bionde vanno ringraziate. Vanno ringraziate le bionde. Tutti che dicono finte. Le bionde che sono stupide. No, non è vero. Quali Nicole è una bionda intelligentissima. Tutte le bionde sono intelligenti, sì, perché sono quelle che ti stanno ascoltando, poi vengono qua. Ma certo. Ti aspettano nel Venite al convento, è fantastico. La rissa delle bionde. Infatti, Nicole, essendo molto intelligente, faceva animazione col libro in mano. Certo. Anche lei. Tu studiavi? Sì. Io studiavo mentre facevo animazione. Fidati che memorizzi di più. Vabbè, allora sei uscita almeno col 110 lode. Ovvio. E bacio accademico. Sono dottoressa io, eh. Caso. Complimenti. Sì, mi posso inchinare. Francesco, Chapeau. Francesco ci sta provando, vuole darti il bacio accademico. È una nuova tecnica di abbordaggio. Bacio accademico. Sì, è una nuova tecnica. Sai che i maschi hanno varie tecniche, no? Per imboscarsi un po' con le ragazze. Sì, sì, io ci provo sempre in radio. Ah, sempre in radio? Così. E ti funziona? Cioè, ma non lo so, ma dimmelo te. Come ti funziona? Attenzione, colpo di scena, Ti funziona bene la tecnica, La tecnica, la tecnica non lo so, dipende un po' da chi mi trovo. Dimmi te se funziona, Nicole, la tecnica. Beh, devo dire per che il resto già, funziona tutto. Mi hai già conquistato. Ragazzi, che faccio? Occhiale, così poi guarda il top. Che faccio reggo il moccolo? Che faccio reggo? Puoi uscire se vuoi. Grazie per me. No, vado. me ne vado così. Colpo di scena pazzesco. Cioè, è la prima volta che vedo un cuccaggio in diretta. Cioè, c'è sempre una prima volta, no? Esatto. Cioè, io direi che siete sulla stessa lunghezza d'onda. Dici, certo. Questa onda da dove inizia? Sulla dove stessa finisce, FM. Voglio vederla. Sì, Siamo sulla stessa FM, giustamente. Siamo no? sulla stessa FM, la certo. FM del convento. Se ti chiamavi Nicole, era perfetto che era Francesco e Nicole, FM. Invece, però la FN. Dopo la M viene la N, quindi ci sta tutto. FN come la nostra festeggiata, Francesca Nava. Bravissimo, vedi come si aggancia ogni volta per pensare a lei. Ci prova con Nicole, ma pensa a Francesca Nava. Bisogna sempre averne almeno tre Beh, ma in effetti c'è un'altra festeggiata che tra l'altro si chiama come Nicole. Lei. Nicole, esattamente. Esatto. Ah, hai visto? Esatto, non dimentichiamo dell'altra festeggiata, Esatto, Nicole. E Nicola, il cognome, te lo ricordi? Non ti ricordo. Ma infatti vedevo che non te lo ricordavi. È in panico, infatti tu hai fatto la domanda giusta al momento giusto. Sta bionda. Purtroppo sono invitato solo la parte di Francesca. Mi dispiace perché Nicole, da quanto l'ho conosciuta stasera, è davvero una ragazza fantastica. Ma tutte quelle che si chiamano Nicole sono fantastiche. Ma ovviamente, per caso? Ovviamente. E soprattutto quelle che parlano in radio. E quelle che hanno leve motion ancora di più. Ancora di più. Ragazzi, certo. me ne sto andando di nuovo. Cioè, andate. Resta. Quando prendete l'onda giusta, scattano i complimenti. Certo, che, sì. Ma che bello, ma tu altri complimenti per Francesco ne hai? Allora, questa camicia mi ispira molto e ancora di più questa collana floreal. Grazie. Mi dispiace per la camicia che è un po' macchiata di Baileys, ma che mia buono, amica. Sai che mi piace il Baileys? Nel caffè lo metto sempre. Sì, anche alle 6 del mattino, caffè con letto Baileys. Anche io lo preferirei bere che versarmelo addosso. Sì, ma perché devi sapere, Nicole, che Francesco ha una nuova tecnica per bere il Baileys. Cioè, se lo versa sulla camicia, poi. E poi lo assorbe. Ecco, certo. Cioè, è una tecnica. Bravo, vedo che sei preparato. Sì. È fantastico. Chi non beve il Baileys così, perché Francesco è tutto alternativo, no? Certo, in Valle Camonica si fa sempre tutto un po' più diverso. E poi ti devo dire che invece solito. Io stasera mi sono fatta il bagno con la cera, perché mi è caduto il candelabro proprio sulla maglia nera. Aia. Quindi ho tutta questa bella spizzata di allora, di tra cera. L'altro tutto quello che dice Nicole stasera non ha doppio senso, ci tengo a precisarlo. Sì, perché dire ho questa bella schizzata addosso, cioè, suona spero male. Spero che sia solo cera. Ci siamo schizzati tutti, io, Nadia, Mario, tutti. Madonna. Quanti schizzati di cera, ovviamente. È uno staff. Spero che non vi abbiano preso, perché sennò vi mandano su qualche sito a luci rosse. Speriamo di no, però già. Sai, telecamere, foto, qua. Già la radio è tutta a luci rosse. Esatto, quindi, meno male che si sente solo la voce, perché c'è anche la webcam, aiuto. Esatto, ci stiamo anche autoriprendendo. Tra l'altro direi che uno staff schizzato a sto punto, no? Sì, direi proprio che proprio. È l'aggettivo giusto. È l'aggettivo giusto, è schizzato, perfetto. Schizzato di Baileys, chi diceva, chi schizzato anche. L'importante è essere schizzati. L'importante è essere schizzati e essere qui al convento di Nonato a festeggiare Francesca Nava? Francesca Nava e Nicole. E non Nicole. So il nome, ma di sicuro. Bravissimo. Ma è vero, Francesco, che quando tu tornerai qui al convento, perché verrai a cercare Nicole, certo. Ti presenterai con una rosa camuna? Porto tutto quello rosa che vuoi. Camuna. La rosa non camuna. Sai cos'è la rosa camuna? Sì. Ah, meno male. Aspetta. Ho capito qual è. È un formaggio buonissimo. È quella della Val Camuna, no? È la Val Camonica, esatto. Da dove arrivo io? Ma certo, ti porto la Val Camonica proprio nella sua essenza. Sì, è un formaggio. Ti porto il pota alla Val Camonica e tutto quanto. È un romanticone, eh? Tu lo sai com'è il detto del pota? Qual è il detto del pota? Pota la dis quando si frotta, se scotte, quando si scotace il pota faccio. Yes, sì, sì. La traduzione pota, per il resto. Pota e fascia in fra quando è cota. Ecco, adesso andiamo di lì, facciamo la traduzione per quelli. Pota lo dicono i frati quando si scottano. E quando si sono scottati sono, non me lo ricordo più. Non ti ricordi più la traduzione? Non ti ricordi più cosa hai detto. Attenzione, quando inizi a parlare dialetto camuno, allora, tutto il resto mi hai mandato Nicola in avaria. Guarda che sono in pochi che riescono a stregarla così, ma con due pota, una rosa camuna e un belli schizzato sulla camicia, l'hai stregata proprio. Sono pochi quelli che riescono a resistere al fascino camuno. Sì, davvero? Sì, questo sì. Fascino camuno che è irresistibile. Cos'è che ha questo fascino camuno? È inspiegabile. È il profumo della Val Camonica. No? Il profumo della Valle Camorra, sì. Non di formaggio, ma neanche. È il profumo di malga, di pecore, di capre, di mucche, quelle cose è lì. È buonissimo, non ho essenza. Ecco. Vi aspetto tutti in Val Camonica, tra l'altro, la Valle dei Segni, dove sono state scoperte le incisioni rupestri. Tra l'altro, tra qualche mese viene da noi Alberto Angela in persona per fare un servizio per Ulisse, il piacere della scoperta. Quindi vi aspetto tutti quanti in Val Camonica. Perfetto, allora Francesco, mi raccomando, prima che venga Alberto Piero Angela, o Alberto. Alberto Angela, fai una nuova incisione con scritto Nicole, I love you. Così vedranno anche questa in tutta Italia. Domani appena torno è la prima cosa, ecco, che faccio sicuramente. Vai lì vicino a quelle preistoriche, ti metti, esatto, lì e incidi, ecco. In parte al pitoto camuno ci mettiamo Nicole, I love you. Al pitoto camuno? Al pitoto camuno, l'omino. Ah. c'è anche quello, c'è tutto proprio. C'è tutto, ovviamente noi in Val Camonica abbiamo tutto quello che desideri. Nicole è rimasta attratta dal pitoto Camuno. è il nome che allora, ti... Oggi è la giornata dei doppi sensi, è proprio giornata nazionale. Per Nicole, giornata nazionale del doppio senso, il pitoto Camuno. Signore e signori, se avete un pitoto Camuno, venite qui al convento. Vi aspettiamo. Gli aspettiamo. Arrivano loro adesso. E intanto, amici cari, sono passati 10 minuti e dobbiamo parlare per 5, sono già 10 minuti. Una cosa il pazzesca. Il tempo vola quando ci si diverte. Quando ci si diverte, hai visto che roba? Eh? Soprattutto quando sei in compagnia di Nicole. Ciao, lì, altro che volare. Ti fa volare, Nicole? Mi fa volare, sì. Ma guarda che c'è già Lovazzi in giro, eh. È vero. Mi fa volare. Mi fa volare. C'è il sosia, l'ho visto, infatti volevo chiedergli l'autografo, ho detto fermi tutti qua. Dai, dai, chiediamogli l'autografo e poi lo facciamo venire in radio così faremo un'intervista anche a lui. Intanto dobbiamo salutare il mitico... Grazie mille ragazzi, non so come davvero come ringraziarvi. Un bacio a tutti. A tutti? Facciamo così, dallo a Nicole. Un bacio a Nicole, ecco. Un bacio a Nicole per anche prima Sandrino, e poi anche scusami, a Sandrino e a tutti quanti, siete davvero fantastici, complimenti. Non si fanno differenze. E a tutti, e ripeto bastava ancora, l'abbraccio. Venite al convento, il divertimento è assicurato. Tra l'altro non l'abbiamo pagato, è una cosa sua spontanea. Non sono pagato, sono spontanissimo. Mi sembra che l'abbiamo pagato. No, tutto spontaneo, proprio farina del suo sicuro, sacco. Sandrino? Sono sicuro, io non lo conosco neanche. Grande okay. Francesco, ma secondo grazie, me grazie. È sempre merito di Nicole. Grazie. Beh, ok, Nicole, un punto in più. Ok, ciao Francesco. Ciao, grazie mille. Ciao e salutami la Francesca e la Nicole che si sono appena laureati. Assolutamente. Tanti auguri. Tanti auguri, congratulazioni a tutti quanti, grazie ancora a voi. Grazie. Buona serata a tutti quanti. Ciao. Ciao. Ciao.